Buonasera signore e signori, vicini di casa, casalinghe, senza casa, e benvenuti sul treno dell'anima. Io sono il capitano di questo treno. Noi ci fermeremo a tutte le stazioni, comprese paura, pazzia, carcere e... beh, morte. Io sarò il vostro incubo peggiore. Mi sono appena cagato addosso. Sì, sono pieno di pulci e dal mio uccello sgocciola così tanta gonorrea e sifilide che potete aprirlo e chiuderlo come un rubinetto. Io sono una supernova di energia negativa che sta per esplodere. Sono come una cometa che attraversa il cosmo e sputo la mia essenza ovunque vado. Ehi, ciao bella, come ti va oggi? Stai viaggiando sul mio treno, lo sai? Io sono il capitano di questo treno. Dove stai andando? Stai andando a lavorare? Brava, fai bene ad andare a lavorare. Tienitelo stretto il tuo lavoro. Ehi, fratello. Già, dico a te, fratello. Io sono il capitano di questo treno, lo sai? Lo vedi il sedile a cui tieni appoggiato il tuo culo? Beh, ci ho vomitato sopra la settimana scorsa. Sì, sono stato io. Spezzatino di pollo con piselli. Gnam, buono. Se frughi bene fra le fessure, ci puoi trovare un pisellino rinsecchito che ti può venire bene da masticare mentre conti i tuoi spiccioli. Ehi, voi! Lo vedete quel posto lì in fondo? Sì, quel posto lì è in assoluto il mio preferito di tutto il treno, perché io da lì posso guardare fino in fondo alle due estremità. Beh, ieri io stavo seduto proprio lì. Sì, era proprio ieri. Ero seduto lì, avevo tutta la mia roba con me. Ero bello, comodo, tranquillo. Così comodo che mi sono pisciato sotto. La pipì è scesa attraverso il bosco dei miei peli, ha caricato le pulci che stavano lì e ha superato la crosta delle mie mutande ed è andata a finire dritta dritta sul sedile in una bella pozzangherona rotonda. Era, come posso dire, una specie di minestrone. Ecco, come dire, un concentrato di me stesso. Sì, meglio un concentrato di me stesso. E io ci stavo seduto sopra finché era caldo. Poi purtroppo si è raffreddato un po' e allora non ci stavo più comodo. E così ho alzato le mie chiappe e mi sono spostato fino in fondo al vagone. Ehi, voi là in fondo? No, tranquilli, non c'è nessun problema. Si asciuga tutto, si secca tutto, che è una meraviglia. E poi quello che resta sono solo delle molecole. Sì, delle molecoline, guarda, non le puoi neanche vedere, tanto sono piccole. Beh, insomma, ragazzi, poi a un certo punto è arrivato un tale, un certo Franco, ma noi lo chiameremo Franky. Sì, era il classico uomo d'affari con il suo cappotto di pelo di cammello e la sua 24 ore griffata. E non va a sedersi proprio lì? Sì, si va a sedere proprio sopra le mie molecoline. Si siede lì e non si accorge di niente. Lui stava tornando a casa per vedere il telegiornale della sera. Deve vedere che cosa succede nel mondo, perché poverino da solo non se ne accorge. Beh, insomma, comunque arriva al suo condominio, sale le scale, apre la porta, entra in casa, appoggia il suo cappotto di pelo di cammello sul divano e fa: tesoro, sono tornato. Questo è quello che dicono tutti quelli che vivono nei condomini, devono sempre far sapere agli altri dove sono. Tesoro, sono tornato, tesoro, sto uscendo, tesoro, me ne vado, ma chi cazzo se ne frega. Beh, comunque si siede e inizia a mangiare la sua bella cenetta. Gnam, gnam, gnam, gnam, che buona. E poi all'improvviso, di scatto, si alza e fa: tesoro, era buonissima. Lo sai, tesoro, che cosa ho fatto oggi? Oggi ho licenziato 150 coglioni e adesso mi è venuto duro. Avanti, scopiamo! E afferra sua moglie, che ha un corpo bellissimo, sì, perché passa tutte le sue giornate in palestra a fare zumba, è anche un bellissimo istruttore di zumba. Beh, la afferra e la scaraventa sul divano. Iniziano a scopare come ricci, sì, scopano in tutte le posizioni, davanti, di dietro, di fianco, di lato, ci provano pure su una gamba sola e rotolano e rimbalzano per aria, poi ripiombano sul divano e rotolano. Ne rimbalzano per aria anche i peli del cappotto di cammello e con loro le mie molecoline. Ma è a questo punto che Franky decide di mettersi davvero d'impegno. Allora spalanca le cosce della sua bella mogliettina e tira fuori la lingua. Ma proprio quando sta per raggiungere l'umido boschetto, proprio quando la punta della lingua si protende nel massimo sforzo, ecco che una delle mie molecoline gli va a finire proprio dritta in gola. Già, gli va a finire proprio dritta in gola. E Franky non si accorge di niente, no? Non si accorge proprio di nulla. Ah, ma se se ne accorgerà, ragazzi, è come se se ne accorgerà, perché il mio marciume è roba forte, resistente. Beh, insomma, le mie molecole sono al calduccio nello stomaco di Frank e bollono e ribollono e crescono e si trasformano e trasformeranno anche Franky, cambieranno la sua vita. Le molecole iniziano a volteggiare nel cervello di di Frankie. E Frankie inizierà a fare cose che non aveva mai fatto. Si comprerà un giubbotto antiproiettile, farà sterilizzare tutta l'acqua che beve, inizierà a guardarsi le spalle anche mentre cammina, farà mettere serrature di sicurezza a tutta la casa, non uscirà più di casa, non farà uscire nemmeno più i suoi bambini a giocare, non risponderà più al telefono, non uscirà nemmeno più a recuperare la posta. E poi si comprerà un fucile e sparerà alla prima persona che bussa alla sua porta. Pa pa pa pa pa pa pa. Frankie è stato contagiato dalla malattia della paura, e la paura lo divorerà dal buco del culo su fino al cervello. E quando le mie molecoline avranno finito con Frankie, zac, salteranno addosso a qualcun altro, perché quel che tocca a me domani tocca a te, perché io e Frankie eravamo sullo stesso treno. Ops. Siamo tutti sullo stesso treno e nessuno può scendere. Signori e signori, io sono il capitano di questo treno e perciò vi dico: allacciatevi le cinture di sicurezza, aggrappatevi alle maniglie, perché, che lo vogliate o no, che vi piaccia o no, io e le mie molecoline vi porteremo a fare un bel viaggetto. Ehi, frate a me, come stai? Tu vieni una bellezza, vieni. Dammi il cappotto, vieni, accomodati. Che sta a fare sulla porta? Vieni avanti, vieni. No, non aver paura. Sono i miei cani, Harley e Davidson. Cucci, seduti, buoni. Tranquillo, che i cani non mordono, se non glielo dico io. Scherzetto. Allora, vuoi una birra? Rugiada, porto una birra al mio amico. Senti, a me, a proposito, com'è che ti chiami? Franco. Maronna mia, che nome è merda. Vabbè, ti chiamerò Franky. Rugiada, porta una birra a Franky. Allora, Franky, parliamo di cose serie. Questa è roba purissima, eccellente. Chi serve olandese, 100 euro al grammo. Però te ti fai una canna di queste e ti dimentichi pure di come si fanno le seghe. Rugiada, e allora con questa birra? Avanti, che la gola di Frankie è secca. Che cazzo, Rugiada, mi vuoi aiutare? Non è che posso lasciare qua da solo Frankie coi cani che si mangiano tutta la roba. Maronna mia, falla spogliare lista. Pensi di avercela solo lei. Senti una cosa, amico, che lavoro è? Che fai? No, aspetta, fammi indovinare. Sono bravo a indovinare. Tu sei... sei uno sbirro della narcotici. Scherzavo. Aspetta, facciamo le cose seriamente. Allora, cappotto di cammello, Rolex d'oro, sguardo sfuggente. Sei un agente di borsa. Ah, cazzo, indovinato. Sono un genio, sono un dio. Sei ok, sì, perché è figo fare i soldi. Ah, non c'è niente di male a fare i soldi. Vedi che io l'ho conosciuto uno come te, agente di borsa proprio come te, che si stava in palla d'oro per lo sci, che si girava al mondo per sciare nei posti più strani, si faceva mollare dall'elicottero in cima alla montagna per sciare dove nessuno aveva mai sciato. Che cazzo di gusto ci prova se nessuno lo vede? Vabbè, comunque, anch'io ho sciato, e sciare ok, mi piace veramente, mi piace molto sciare, Tu sali sulla collina, scendi dalla collina, risali sulla collina, riscendi dalla collina, risali sulla collina, ti becchi una polmonite, ridiscendi dalla collina e ti spacchi una gamba. Ah, che bellezza! Ma come puoi pure solo paragonarlo, con lo stare con la tua donna? Voi vi sparate due bei cannoni di roba giamaicana, vi scaldate a puntine, belli, rosolate come sul tostapane, nudi come vermi e via! Tu lecchi lei lecca te, tutta roba cruda, tipo cucina giapponese, come cazzo si chiama la cucina? Sushi, e senza neanche che te ne accorgi, padapà, acrobazie tipo circo, e poi pa, esplodi, cazzo, esplodi. Allora te ne stai lì, sdraiato sul letto, 7 ti senti come a Dio, Gesù Cristo dopo la resurrezione. Io già vi vedo, belli sdraiati comodi sul letto, belli tranquilli, sudati appiccicosi come due cammelli allo zoo. Tu tieni i capelli impatacciati sulla fronte, lei tiene una bella pozzangherona sulla pancia, tu le scrivi il tuo nome con il tuo succo e poi riprendi a pasticciare col suo vasetto di miele. Allora lei, allora lei riprende a manovrare con il tuo joystick e tu, oh, capitone, sei svegliato, capitone, è di nuovo sull'attenti il capitone. Allora tu sei lì con il capitone pronto per rifarla un'altra volta. Allora lei ti infila un bel dito nel culo, tu le stritoli i capezzoli, lei ti arrotola le palle e tu inizi a ringhiare. E poi esplodi, cazzo. Poi vieni talmente forte che ti pare di esserti scopato pure il cervello. Pensi ancora che sciare sia meglio? Un problema è che la gente non sa più come rilassarsi. Io sì, perché io tengo rock and roll, hai capito? Rock and roll, la musica, cazzo, la musica. L'altro giorno, no, stavo in macchina, accendo l'autoradio e indovina cosa stanno suonando? Cazzo, la mia canzone preferita, Give Peace a Chance. E chi mi interrompe la musica? Uno strunzo di DJ che me la mena per 2 euro sulla tragedia di John Lennon. La tragedia di John Lennon, cazzo. E certo che so chi era John Lennon. Era ricco, famoso. La gente si credeva che fosse Dio, invece era solo un Beatles, no? Un scarrafone che cantava. Chi si è girato il mondo? Ha scopato chi voleva? Si è fatto più roba lui di un giumbo colombiano da narcotraffico, cazzo. Tutto aveva fatto, ogni fottutissima cosa del mondo, no? E poi un bel giorno torna a casa, pa, è un tizio qualsiasi, ci pianta 6 pallottole addosso, cazzo, come far saltare la corrente? Minchia, io ci metterei la firma per andarmene così, amico. La tragedia di John Lennon. Te la racconto io, una storia veramente tragica. La storia di Kenny, il mio migliore amico. Chi la sigla è una tragedia. Io e Kenny, il mitico Kenny, eravamo così, come culo e camicia, fratelli. Che dico, fratelli, siamesi, cazzo, siamesi. Noi vendevamo la roba agli hippie, ma solo robettina leggera. Guarda, era LSD liquido, te ne saresti innamorata, una bella siringata nel collo e via di testa, in 5 secondi netti, come saltare con l'elastico senza elastico. Un giorno io e Kenny stavamo fermi a un semaforo sopra le nostre mitiche Harley con gli zaini pieni di peyote. Allora ci siamo guardati negli occhi e senza dire una parola abbiamo pigliato una manciata di funghi e ce le siamo ficcate in bocca e via giù lungo l'autostrada. Siamo tornati 3 anni dopo. Una sera, guarda, non me lo dimenticherò mai, stavamo in montagna. Eravamo attorno a un fuoco e stavamo arrostendo un cervo che avevamo appena tirato sotto con la moto. Belli, tranquilli, ad arrostire sto cazzo di cervo. Io lo tenevo per una gamba, Kenny lo teneva per l'altra. E ad un certo punto Kenny se ne esce fuori con una frase tipo: se dovessi mai diventare come uno di quegli integrati di merda, voglio che tu mi venga a cercare, mi ficchi un fucile a canne mozzi in gola e mi fai saltare le cervelle. E insomma, per fartela breve, Kenny era uno che scommetteva su tutto, no? 6 anni dopo ti compra un biglietto della lotteria e vince, cazzo, 1 milione. Allora io penso, cazzo, qua ci facciamo una festa che dura come minimo 1 mese. E invece no, sto stronzo non si decide di cambiare vita, eh? Si rasa la barba, si taglia i capelli, impara a leggere e a scrivere, mette su famiglia, si sposa una guaglione con guagliuncelli e tutto il resto, villa, piscina, prata all'inglese, tutte cose, si trova persino un lavoro, capito? Un lavoro. Comunque, ci siamo persi di vista per un po', per un bel po', e poi un mese fa Kenny mi invita a un barbecue nel suo giardino. Io ci vado. Sono lì, in mezzo a tutti questi tipi, tutti inquadrati. Io mi adeguo, sono educatissimo. Insomma, cerco di parlare un po' con Kenny, no? Che mi tira su una pippa di 2 euro su come cazzo funziona il filtro della piscina. Cioè, non so se ti è chiaro il concetto, il filtro della piscina. Vabbè, comunque, prima di andare mi ero fatto un paio di aciti. Insomma, cazzo, mi andava di essere un po' festivo, no? Era un party, tutto sommato, era un party. E così iniziò a fare a torti in faccia col marmocchio di Kenny, no? Siccome una cosa tira l'altra, mi ritrovo praticamente un po' nudo, anzi diciamo praticamente nudo sopra il tetto del gazebo a fare da bersaglio al marmocchio di Kenny, no? E rido talmente tanto che per tenermi la pancia casco all'indietro e finisco dritto in piscina. Col mio tuffo spruzzo tutti quei coglioni con l'aperitivo in mano, cerco di issarmi fuori dalla piscina, quando sono all'asciutto, bah! Vomito addosso al capo di Kenny. L'ultima cosa che mi ricordo è di essere sbattuto fuori casa da Kenny, incazzato come una biscia perché dici l'avevo messo in imbarazzo davanti ai suoi amici. E aggiunge: non voglio vederti mai più. Allora l'ho guardato dritto negli occhi e mi sono accorto che Kill non era più Kenny, il Kenny che conoscevo, il mitico Kenny. E allora mi è venuto in mente quella sera attorno al fuoco. Insomma, per fartela breve, la settimana prossima mi compro un fucile a canne mozze e lo faccio fuori, capito? Sì, lo faccio per lui, amico, perché ci voglio bene, perché gliel'avevo promesso. È come se fosse già morto, quello che resta da fare è seppellirlo. Aveva dimenticato che cos'è la vita, libertà! Cazzo, la vedi? Guarda la cicatrice che ho sulla mano destra. Sono 157 punti. E sai come me la sono fatta, lo sai? Ho sfondato la vetrina di un negozio con un pugno. E sai perché l'ho fatta? Perché mi andava di farlo. Senti qua, senti che roba, senti che muscoli. Tocca l'interno coscia, cazzo. Una roccia, sono una roccia. E sai perché sto così bene, lo sai? Perché fotte, ma faccio fottere tutti i giorni. Libertà! Vivi libero oppure muori, libertà, vivi libero oppure muori. Non provare ad ingabbiarmi, amico, che io sono un fuorilegge, ricordalo, cazzo, un fuorilegge. Sei a posto, eh? Sei un fuorilegge pure tu, un poco meno fuori di me, ma comunque fuori, eh? Senti, tu mi piaci, eh? Io ti piaccio, eh? Bene. Sai che ti dica che sta stronza la birra non ce la porterà mai. E poi al diavolo questa roba, chi se robetta, eh? Non è che posso farti tornare al tuo lavoro di merda così. Stiamo troppo bene io e tu. Senti, ho avuto un'idea della Madonna. In frigo deve essermi rimasto un po' di quella roba che ti dicevo, no? Di quegli acidi che mi facevo con Kenny. Io e te, soli, faremo cose grandiose. Ora tu aspetti lì, fermo immobile. Io vado di là, sciacquo il siringone e torno. Cosa? A mettere su adesso le bruschette, se lo vuoi mangiare con le bistecche, cazzo! Se vuoi mangiare le bistecche fredde, allora aspetta un altro po' a farle, no? Aspetta un altro po'! Così, vedi? Ho fatto recintare i nostri 15 acri di terra, Ciccio? Con palizzate robuste e il filo spinato fino in cima. Cioè, per motivi di sicurezza, no? Lo so che mi capisci, sicurezza! Noi qua ci passiamo tutta l'estate, c'ho i bambini che mi corrono dappertutto. Così io posso dormire bello tranquillo la notte, no? Sì, noi qua ci passiamo tutta l'estate, io in città poi voglio starci il meno possibile. È qui che c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno, no? Lo vedi? I bambini vanno pazzi per la piscina, la Sonia c'ha il suo campo da tennis e io c'ho il mio bel barbecue, no? Guardi i ragazzi e griglio tutta l'estate, no? Senti, hai visto che roba il barbecue? Ma che roba, ma che robina. Io qua sopra ci metto di tutto, eh? Bistecche, polli, aragoste, pesce. Ma che meraviglia. Allora, guarda, ti spiego. Qua sotto c'è un fornetto, no? Ci posso cuocere anche il pane, cazzo. Qua sopra invece c'è un forno a microonde. Questo invece è un piccolo refrigeratore, birrette, bibitine e tutta sta roba qui. Vabbè, la musica, stereo, Dolby Surround. E qua dietro invece ci sono tre linee telefoniche. Cosa? No, mica caro, sei impazzito. 4.000 euro, l'ho ordinato su internet, zac, 3 giorni dopo ci stavo già cucinando sopra, cazzo, lo adoro. Senti, va, senti, respira, respira a pieni polmoni, qua c'è aria pura, lo senti che roba? I bambini nuotano tutto il giorno, io invece me ne sto qui, bello tranquillo, bordo piscina, griglio, zac, e mi rilasso da Dio. Cosa? No, nessuno ne vuole! Te per caso vuoi del formaggio di capra? No, neanche Frankie ne vuole, cazzo, io non capisco perché la Sonia si ostina a comprare il formaggio di capra. Ma tu, cazzo, hai visto cosa mangiano le capre? Una schifezza! Ma che roba, i bambini adorano la piscina, guarda, guarda là come sguazzano. No, niente cloro, nessuno usa più il cloro ormai. Ciccio, io ho comprato un filtro, eh? È il migliore sul mercato, senti, senti che roba. Questo sistema di filtri qui, questo sì che funziona. Allora, l'acqua passa attraverso 3 strati di sabbia, eh? E 14 di carbone. E poi va a finire proprio lì, lo vedi? Sotto il campo da tennis, eh? Allora, là sotto c'è un apparecchietto, no? Che mi surriscalda l'acqua. L'acqua mi bolle, no? Mi diventa vapore, eh? Il vapore mi si condensa e mi torna giù acqua pura al 100%, cazzo! Pura al 100%! Niente può sopravvivere a questo bollore! Neanche l'acqua che c'è in natura è così pura! Neanche l'acqua che scende dai ghiacciai, cazzo! E poi non si può mai sapere chi viene a fare il bagno nella tua piscina, magari uno che c'ha l'herpes, poi i bambini si beccano l'herpes. Ma guarda, io preferisco spendere un po' di più e prevenire l'herpes, no? E poi scusa, in fondo, cazzo, lo sai bene anche tu, in che cosa consiste la vita, eh? I miei bambini, cazzo, la mia famiglia, no? Giusto? Mi sono fatto un culo così io per mettermi via qualche soldo e adesso voglio godermeli, eh? Voglio godermi i miei bambini finché sono piccoli. I bambini sono l'unica cosa importante. Oh, ma lo vedi che io qua ci sto troppo bene, eh? Senti, va, respira, senti, guardati intorno, eh? Io in città non ci voglio più tornare, odio doverlo dire, ma è così, cioè, è che sono costretto ad andarci giù in città, c'ho i clienti tutti lì e non ho scelta. Non ho scelta, cazzo. Non ho scelta, cazzo, perché è una fattuta giungla, mi dispiace dirlo, mi dispiace anche per chi ci deve vivere, ma è un inferno. Non ho scelta. No. No, gli altri non hanno scelta, barboni, drogati, senza tetto, è dura, lo so, e il mio cuore sanguina per loro, davvero, io sono fortunato, grazie a Dio, Dio mi vuole bene, la mia è una vita buona, ma ogni volta che torno in città mi sembra di andare in quella merda di Calcutta, e lo so quello che dico, perché ci sono stato io in India 2 anni fa con un viaggio organizzato, deprimente, cazzo Calcutta. Senti, ma te l'ho mai raccontato quello che mi è successo la primavera scorsa quando ero in vacanza con la Sonia? Allora, un mese prima ero giù in città per lavoro, no? E c'è sto tizio a cui passo davanti ogni giorno. E ogni giorno gli do qualche spicciolo, cazzo, faccio la mia parte anch'io, no? Ma insomma, quel giorno mi avvicino al tizio e mi accorgo che non c'ho spicciolo in tasca. Allora penso, vabbè dai, gli do 5 euro, non andrò mica in malora per 5 euro. Gli do i soldi, li metto in mano... Cazzo, mi accorgo che sono 20 euro, non ti dico. Il tizio va fuori di matto, inizia a saltare come una scimmia, mi stringe la mano, mi benedice, dice che Gesù mi ama e tutte ste cazzate qua, no? E poi prova ad abbracciarmi. Oh, un barbone, senza denti, tutto una pustola e con un alito che stenderebbe un cavallo. Mi dico, cazzo, ti ho appena dato i soldi, adesso siediti e sta calmo, no? Vabbè, comunque, mi dimentico del barbone, no? 3 giorni dopo sono ai Caraibi con mia moglie. Sì, la primavera scorsa, no? Non te lo ricordi? Sono stressato, ci vado per rilassarmi. E infatti sono lì, spaparanzato sulla spiaggia, a guardare le balene, i delfini o cosa cazzo altro dovrei vedere, buttando gli occhi fuori dalle orbite perché non vedo proprio niente. E allora mi incazzo. A me non me ne frega niente delle balene e dei delfini, soltanto che sul deplan dell'albergo c'è scritto che dalla spiaggia si vedono le balene e i delfini. E ora io le voglio vedere. Allora sono lì che mi incazzo col tipo dell'albergo, mia moglie mi fa, amore, che cos'è sta pustolina che hai sul braccio? Che ne so, tesoro, cazzo, sarà orticaria. No? Vabbè, per fartela breve, insomma, una settimana dopo c'ho tutte e due le braccia ricoperte di pustole. Al mio ritorno corro subito dal mio medico, questo mi dice, è un miracolo che sei corso qui, perché se ti risalivano agli occhi saresti potuto diventare cieco. Cazzo, è una malattia che si passano i barboni, eh? Se la passano l'un l'altro, e questo stronzo l'ha passata a me, voglio dire, io ti do i soldi e tu mi dai l'ebola, ma vaffanculo! No, Jeremy! Non si buttano le patatine in piscina, Cristo santo! Mi si intasa il filtro, no? Mi costa 50 milioni di euro, esci fuori dalla piscina! Senti, guarda, io sono la persona più tranquilla, tollerante e democratica di questo mondo, eh? Mi tengo informato, leggo il giornale, guardo i TG, guardo gli sbarchi a Lampedusa, e simpatizzo per i profughi. Ma se toccano la mia famiglia, cioè scusa, proviamo ad essere un tantino onesti con noi stessi, no? Tu adesso ti immagini una bella domenica mattina, io sono qui, leggo il giornale, bevo il caffè, provo a telefonare, alzo la cornetta, muto, alzo lo sguardo e ti vedo quei due negri sul vialetto posteriore. Ok, dici tu, non occorre che siano negri, potrebbe essere chiunque. Ma che cosa dovrei dirgli? Prego, entrate a casa mia, stupratemi la moglie, sgozzatemi i bambini, bruciatemi la casa. Ed è per questo che mi sono comprato un fucile. Sì, ciccio, lo farei. Gli sparerei, cazzo. Lo farei per i miei bambini, gli farei saltare le cervella. Anche se sono della Telecom, cazzo te ne frega. Amore, le bistecche sono pronte. Le porto dentro io, va bene? Jeremy, dai, esci fuori dalla piscina. Esci, dai, che la cena è pronta. No! No, non ci sono gli hot dog! Non ci sono, Cristo santo! Ho comprato le bistecche di Chianina che mi costano una madonna, adesso tu le mangi! Fila in casa! Sono felice di essere qui questa sera. Sono eccitato dall'energia che sprigiona da questa sala, così tante facce felici, così tante persone pronte a cambiare la loro vita. Ragazzi, io la sento questa vostra energia, la sento attraverso il pavimento, la sento salire sulle mie gambe, sulle mie braccia, sulla mia testa, sui miei capelli. Io sto per esplodere dal potenziale di cambiamento che sento in platea questa sera, e lo sentite anche voi, non è vero? Sì, lo sentite anche voi, sì. Dovunque vado la gente mi fa sempre la stessa domanda: Nicola, ma come hai trovato la felicità? Beh, questo mi ricorda una storia, la storia di un piccolo ragazzino che un giorno entrò in un negozio di dolciumi con il suo nichelino in mano. Lui entrò nel negozio di dolciumi col suo nichelino e guardò dritto dritto un pacchetto di caramelle, che lui tanto desiderava più di ogni altra cosa al mondo, e disse all'uomo dietro al bancone: e scusi signore, posso avere quel pacchetto di caramelle? Sì, proprio quello, ecco il mio nichelino, grazie. L'uomo dietro al bancone si sporse, guardò dall'alto verso il basso quel piccolo ragazzino: il pacchetto costa il doppio e io non posso vendertelo. Il ragazzino ci rimase molto male. E poi gli venne un'idea fantastica e disse: senti signore, perché non facciamo un accordo? Io le do il mio nichelino, lei taglia a metà il pacchetto di caramelle, lei si tiene una metà e io l'altra. E l'entusiasmo cresceva nei suoi meravigliosi occhioni azzurri. Che gliene pare? L'uomo dietro al bancone diventò volgare, oltre che scortese. Guagnù, o mi dai soldi e non mi fai perdere altro tempo, oppure ti levi dai coglioni. E girò il suo enorme sedere e iniziò a travasare delle mentine. Il ragazzino si sentì terribilmente deluso, rifiutato, frustrato. Guardò le enormi spalle dell'uomo, la monetina che teneva in una mano, il nichelino e il pacchetto che tanto desiderava. E gli venne in mente un'altra idea. Estrasse dal suo zainetto una Magnum 357 e... patapà! Gliela scaricò nel culo. Si sporse dal bancone, prese il pacchetto e se ne uscì educatamente. E mentre camminava per strada si rese conto che in una mano aveva ancora la sua monetina e nell'altra l'intero pacchetto di caramelle. E il suo cuore si riempì di un meraviglioso senso di gioia, felicità e libertà. Ebbene, fratelli e sorelle, ora voglio farvi una domanda. Quando è stata l'ultima volta che vi siete sentiti così bene? Ci scommetto che non riuscite a ricordarlo, eh? Ebbene, dovete sapere che qualche anno fa io mi trovavo in una situazione disperata. Non mi ero mai sentito così male in vita mia. come molti di voi ero depresso, mi sentivo inutile, rifiutato, stavo toccando il fondo e stavo contemplando seriamente l'idea di suicidarmi. Guagnò, mi obbligai a scavare nel fondo della mia anima e stavo giusto scavando nel fondo della mia anima quando ho sentito una vocina che mi disse: Nicola, ti ricordi di me? E mi sono voltato di scatto, ero sempre lì nella mia anima e sul pavimento della mia anima ho visto questo bambinetto tutto uguale a me. Guagnò, avevo scoperto il bambino che è dentro di me. E vedete questo bambino che porto dentro di me? Ha bisogno di essere preso in braccio, ha bisogno di essere coccolato, ha bisogno di farsi la pipì addosso, che gli si cambino i pannolini, ha bisogno che lo si vizi di tanto in tanto, ha bisogno di piangere, ha bisogno di cagare sul prossimo, c'ha bisogno di vomitare sul prossimo. Guagnò, c'ho un bambino dentro di me e devo accudirlo. Ma la cosa miracolosa è che ognuno di noi ha un piccolo bambino dentro di lui o di lei, ognuno, e ripeto ognuno, e non importa quanto possiate essere vecchi, brutti, incalliti nel vizio, depravati o mentalmente disturbati, ognuno, e ripeto ognuno, è stato una volta un piccolo, dolce, adorabile e felice bambino. Guagnò, questo bambino è ora dentro di voi. Ascoltate il vostro bambino, provate a sentire quello che il vostro bambino vi sta dicendo. Mamma, lo sentite? Papà? Voglio la Porsche! C'è un bambino dentro di voi che vuole uscire! Guagnò, ma voi l'avete mai visto giocare un bambino? Eh? I bambini non si preoccupano dell'indomani, né dei conti da pagare, né di urtare la sensibilità altrui. Loro non leggono il giornale, non guardano il TG, non rispettano le leggi. I bambini vivono adesso, loro sono maleducati, duri, egoisti e violenti, e perciò sono felici. E che cosa facciamo noi a questi perfetti e felici esseri umani quando crescono? Eh? Noi li trasformiamo in adulti depressi e frustrati, noi gli costruiamo intorno un muro fatto di paure, di ansie e di pulsioni negative. Allora io vi dico: abbattiamo questo muro, e liberiamo il nostro bambino, cioè irrompete, liberatelo, afferratelo e lanciatelo per aria, fatelo volteggiare, forza, voglio vedere tutti questi bambini per aria. Liberatevi dalle pulsioni negative, smettetela di preoccuparvi del domani e del ieri. Preoccuparsi, Guagnò, non serve a niente. E poi il mondo è già un posto un tantino complicato, no? Cioè cercare di capirlo non lo rende certo meno complicato. Il mondo è esistito per 20 milioni di anni senza il vostro aiuto e continuerà ad andare avanti con o senza di voi. Smettetela di preoccuparvi per delfini e balene, loro non hanno bisogno di voi, ma il bambino che è dentro di voi sì. Lasciate che vi dica io quali sono le vostre responsabilità. Voi dovete essere un buon genitore per il bambino che è dentro di voi. Io voglio che voi prendiate questo bambino per mano e lasciate che sia lui a condurvi verso una nuova vita fatta di gioia, felicità e sano egoismo. Da oggi in poi, guardandovi allo specchio, dovrete dirvi: come sto oggi? Come sta il mio dolce e meraviglioso bambino? Che cosa mi succederà di bello oggi? Che ne so, arrivate in ritardo al lavoro, no? Il vostro capo è incazzato, voi gli dite: fanculo, questa mattina mio bambino aveva bisogno di dormire. Vi siete dimenticati di fare gli auguri di compleanno a vostra madre. E pazienza, glieli farete l'anno prossimo, se sarà ancora viva. State girando per trovare un parcheggio da mezz'ora, l'unico posto libero è per handicappati. Chi se ne frega? Il bambino che è dentro di voi è portatore di handicap. Se comincerete a dedicarvi al vostro bambino, vi troverete continuamente a pensare a lui. Andrete ad altri gruppi di bambini che stanno dentro di noi, parlerete ad altri bambini, vi guarderete tutti i video che ho fatto sull'argomento, sentirete i miei CD in macchina mentre guidate, andrete al cesso e leggerete tutti i libri che ho scritto sul bambino che è dentro di noi. Guagnò, voi renderete felice questa creaturina. E così facendo lo sarete anche voi, e mettendo una persona felice di più al mondo avrete reso questa terra un posto migliore in cui vivere. Ok, adesso noi ci divideremo per gruppi e io verrò a parlare individualmente con i vostri bambini. Ah, io comincio dalle bambine, che mi viene meglio. Salve, io mi chiamo Franco, e per gli amici Franchi, facciamo Franchi. E niente, sono un maschio in via di recupero, ecco. Io sono d'accordo con quello che è stato detto la volta scorsa relativamente alla vergogna del pene. Anche io la provo. In effetti poi penso che molti dei miei complessi, diciamo, derivino proprio dal fatto che sono un uomo. E la mattina, no, per esempio, quando sono sotto la doccia e mi guardo in basso, ecco io mi rendo conto di che brutta persona che sono. Cioè, voglio dire, non è che io provi vergogna proprio del mio pene in quanto tale, no, mi piace moltissimo, anzi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto io e lui. Forse dovrei dire lei. Non è un po' maschilista pensare che il proprio pene sia lui? Beh, vabbè, comunque è proprio questo l'argomento che io voglio toccare. No, le sensazioni intendo toccare, non il mio pene. Non che io provi vergogna a toccarmi il pene, cioè mi piace toccarmelo, mi piace moltissimo, è che è sempre stato un mio complesso, perché come dicevo, diciamo, la settimana scorsa durante quella sessione di gruppo, mia madre mi frustava col filo del telefono ogni volta che mi sorprendeva a toccarmelo, e purtroppo è solo da poco tempo che ho smesso di avere un'erezione ogni volta che squilla il telefono. Sì, però scusate, questo appartiene al passato, io voglio parlarvi, diciamo, di quello che io provo oggi. Allora, prima di tutto voglio dirvi che io ho un'immagine molto positiva di me stesso, cioè mi rendo conto di essere un uomo molto attraente, insomma. Infatti vado in palestra tutte le sere, adesso ho pure cominciato un corso che si chiama Il tuo io, la tua vergogna, il tuo orgasmo. Io a questo corso ho imparato a essere sensibile, cioè prima mi preoccupavo solo del mio di orgasmo, ora mi preoccupo per quello di tutti. E che il problema è che a volte mi sento bloccato, no? Cioè è molto deprimente, mi sento come un essere umano imprigionato, ecco, in un corpo maschile, come due settimane fa, no? Per esempio, quando un amico mio mi invita a un concerto di una sua amica pianista. Questa ragazza è una donna fantastica e suona tutta questa roba tipo Bach, Chopin, lei è grande, io non ci capisco niente, ma Sono travolto e insomma alla fine del concerto organizzano un ricevimento in suo onore, no? di questa pianista meravigliosa, una pianista internazionale, proprio importante, no? Vabbè, insomma, io e questo mio amico ci imbuchiamo al party e niente, quando lui me la presenta e io ci stringo la mano e lei mi guarda diritto negli occhi e profuma di buono. Io l'unica cosa a cui riesco a pensare è di sodomizzarla. È inappropriato, lo so. E infatti ero pieno di vergogna, cioè mi vergognavo della mia stessa vergogna, e così sono fuggito dalla stanza e mi sono chiuso nel bagno. Ah, e per fortuna che avevo con me quel libricino, quel manualetto sulla meditazione che mi avete dato l'ultima volta, no? E infatti io mi sono fatto la doccia fredda. Sì, nel bagno dell'appartamento dove davano la festa. Infatti gli altri invitati tempestavano di pugni la porta, io ero sotto la doccia fredda e continuavo a ripetermi: sto facendo la cosa giusta, sto facendo la cosa giusta e ne sono fiero. Comunque, io ho raccontato, no, questa storia alla mia analista e lei mi ha consigliato di scrivere una lettera a una di queste donne che, diciamo, io immagino quando mi masturbo, no? E io l'ho fatto, gliel'ho fatta leggere, e lei mi ha detto: la prossima volta che ti trovi ad andare in una di queste riunioni, vai e la leggi davanti a tutti. E allora io ce l'ho qui con me, Scusate che sono un po' emozionata adesso, ve la leggo. Allora, cara Michelle, prima di tutto io non so se tu ti chiami realmente Michelle, però io ti chiamerò così. Forse un giorno ci incontreremo e io imparerò il tuo vero nome. Forse ti vedrò camminare per strada o ti incontrerò sulla metropolitana, o forse ci troveremo seduti vicini a un cinema. Spero che ciò accada, così avrò l'occasione di chiederti scusa per tutto il male che ti ho fatto. E tu adesso ti starai chiedendo: ma come hai potuto farmi del male se non ci siamo mai conosciuti? Questo è vero. Molto probabilmente centinaia di migliaia di uomini hanno fantasie su di te ogni settimana, perciò non sono poi così speciale. Ma voglio chiederti scusa. Tutte le domeniche io sfoglio avidamente il supplemento del giornale per trovarti. Dov'è Michelle? Ti cerco nella pubblicità per la biancheria intima, in quella delle palestre, del club mediterraneo. Vengo preso dal panico e poi finalmente ti trovo. Ti trovo in un bikini ridottissimo, in una combinazione slip reggiseno, magari mentre ti chini per entrare in una vasca per l'idromassaggio, con un capezzolo che fa capolino. E allora sei mia, solo mia. Non vorrei dirti adesso quello che faccio, ma devo dirtelo. Tu mi appartieni ed io ti possiedo in tutti i modi possibili ed inimmaginabili. Io ti consumo, ti giro e rigiro in tutte le maniere. Tu sei la mia schiava d'amore ed io il tuo padrone. Santifico il tuo culo, adoro le tue tette, mi inginocchio davanti alla tua succulenta figa, sono in paradiso. A volte dura a lungo, a volte pochi momenti, ma io ti ho avuta e tu lascia che te lo dica, sei stata meravigliosa. E poi, come sempre, ti svilisco, ti degrado. Nel culmine della gioia non riesco a trattenermi e la mia energia vitale si spiaccica proprio sull'immagine stessa del mio amore, sul tuo viso, e ti ho persa ancora una volta, sommersa dal prodotto appiccicoso del mio amore. Mi spiace veramente, ma io ti amo comunque. Chi ti scrive è solo un uomo con il suo pene e ti chiedo scusa anche di questo. Ecco, io vi ringrazio insomma per aver condiviso con me questa esperienza, però vi dico subito che io non voglio condividere con voi le vostre. Grazie. Testa del cazzo. Adesso perché mi sono svegliato con questo cazzo di mal di testa? Ah già, perché ieri sera mi sono fatto bene bene. Minchia, ho fatto il giro della morte, ecco perché. Adesso che minchia faccio? Vabbè, mi rifaccio di nuovo. Perché? Dici perché ti rifai di nuovo? Perché? Perché il sapore dell'arancia appena spremuto mi fa cagare. Odio l'odore del caffè. Odio la voce di quella testa di cazzo del telegiornale delle 8. Odio guidare per andare a lavorare. Odio respirare, fare la coda. Odio vivere aspettando di morire. Poi dici: perché cazzo stamattina dovrei andare a lavorare, no? Perché uno stronzo di capo ufficio che non c'ha un cazzo da fare tutto il giorno possa dire a me quello che devo fare. Che se poi va tutto bene, una volta detratte le tasse, quello che mi metto in tasca è una miseria. Pago le tasse, perché quella massa di ladri, bugiardi, lardosi, merdosi, policulitici del parlagazzamento possono avere l'auto gratis, la casa gratis, il telefonino gratis, eppure la segretaria che glielo suca gratis. A mia me lo devi succhiare, a mia Obama, Bush, Laden, del cazzo suca. E poi perché cazzo dovrei tenermi un lavoro? Per avere qualche beneficio extra, tipo un'assicurazione sulla salute? Che poi quando mi capita qualcosa di veramente serio chiamo la compagnia assicurativa e mi risponde quella fottuta vocina sintetica del cazzo che mi dice: spiacente signore, ma la sua polizza non copre il rischio di emorroidi. Spiacente signore, ma la sua polizza non copre il rischio di tumore al cervello. Spiacente signore, ma la sua polizza non copre uno di quei virus del cazzo che inventano in quei fottutissimi laboratori sponsorizzati dalla CIA. Suca, suca, suca. Ogni notte io faccio lo stesso sogno. Siamo nella sesta guerra mondiale. Le bombe atomiche cadono su New York e su Los Angeles. E una, la più grande di tutte, sta cadendo molto lentamente su Washington. E tutti, i politici, i deputati, il presidente, si affannano per correre nei loro passaggi segreti, per nascondersi nei loro bunker, che loro credono a prova di bomba, ma non sanno che io e i miei amici abbiamo già messo una dozzina di bombette nucleari nei loro bunker di merda. E quando loro sono dentro, paf, chiudiamo la porta a stagna e io, Bruce Willis, Chuck Norris e Van Damme gli buttiamo delle bombe a mano nei condotti e gli facciamo saltare in aria quei culi flaccidi e li mandiamo all'inferno prima di avere il tempo di dirgli suca. E va bene, lo so, c'ho delle fantasie di morte, sì. Minchia, sentite questa. Sto guidando in autostrada a 240 all'ora. È uno scontro frontale con un pullman pieno di suore del cazzo che cantano alleluia, alleluia. Ma un secondo prima della collisione io mi faccio una pera fra le dita dei piedi, una sega su un video di YouPorn, ascoltando un dibattito sulla letteratura armena. Così, mentre esplodo nel frontale, sto ridendo, sto sballando e sto venendo tutto insieme. Così almeno avranno smesso di annoiarmi con tutti quei discorsi. Ehi, parliamone! Ah, sì, discutiamone! Minchia, chissà stasera cosa c'è di interessante in TV. Ah, beh, sicuramente qualcosa di molto interessante. Senti, tesoro, hai visto l'ultimo numero di Vanity Fair? Eh? E tu hai sentito le ultime cazzate su Brad Pitt? E tu l'ultima stronzata su Angelina Jolie? Minchia, era così interessante. Adoro i film di De Niro, sono così reali. I bambini sono l'unica cosa importante. Smettetela di preoccuparvi per delfini e balene. Ah, beh, io mi faccio un tatuaggio. Sapete che vi dico? Anch'io voglio farmi un tatuaggio. Ma me lo faccio tatuare proprio qui, sulle palpebre. E mi ci faccio scrivere suca melo! Così tutti sapranno che minchia penso di loro. Sono preoccupato per la crisi, sono preoccupato per i bambini africani che soffrono, sono preoccupato per chi vincerà su cazzo di campionato, sono preoccupato per quelle macchie sul tappeto. Grazie a Dio non sono povero, grazie a Dio non sono cieco, grazie a Dio non sono afrocio, grazie a Dio non sono negro. Suca, suca, suca! Io voglio trovare il più schifoso dei maiali, tutto ricoperto di fango e di merda, bello, me lo porto a casa, gli alzo il codino arricciolato, gli ungo per bene il culetto con della vasellina, intanto me lo faccio venire duro e poi glielo ficco dentro. E mentre l'animale urla e grugnisce di gioia, Gina Jameson con un fallo artificiale incorporato mi incula e mi bastona la testa con una gigantesca mazza da baseball. Ehi, voi... Lo sapete io da chi discendo? Io discendo direttamente dagli animali. Sì, direttamente dagli animali. E lo sapete per cosa sono stati creati gli animali? Per fare quattro cose: mangiare, dormire, fottersi e mordersi. E io sono stato progettato geneticamente come loro. Mangia, dormi, scopa, mordi. Mangia, dormi, scopa, mordi. Mangia, dormi, scopa, mordi. Tutto il resto è optional. Finché io voglio cambiare la mia vita. Sì. Per esempio, sono in autostrada, no? Mi ferma una pattuglia e il poliziotto mi fa: ehi, senti, sai dirmi a quanto stavi andando poco fa? E io ci rispondo: ma perché non me lo dici tu mentre me lo succhi? Vado all'agenzia interinale. Un'impiegata seduta dietro al bancone mangia delle patatine da una confezione gigante, eh? La salsina le sbrodola dal mento giù fino al bancone, lei continua a intingere queste fottute patatine in questa salsina di merda e con la bocca piena mi dice: spiacente signore, ma credo che lei non sia adatto per questo lavoro. E io ci dico: mi spiace, ma credo che tu non sei adatta per succhiarmelo. E poi ti incontro sto invasato del cazzo che mi dice: ma sai la buona novella, eh? Gesù ti ama, Dio ti adora, Dio ti vuole bene. Io gli dico: senti, io Dio l'ho incontrato, eh? E in confidenza ti dico, è un travestito cinese, alto un metro un cazzo, mi ha detto di dirti: suca! Io voglio cambiare veramente la mia vita. Voglio cambiare radicalmente la mia vita. Minchia, non mi faccio più il bagno. Non mi lavo più i denti. Non mi pulisco più il culo. Sì, gli voglio puzzare talmente tanto che la gente deve sentirmi ancora prima di vedermi. Devono scappare quando sentono che arrivo. Sì, voglio mangiare come un maiale. Mi faccio 5 torte al cioccolato al giorno con panna montata e burro fuso. Sì, voglio diventare così grasso che quando incontrerò un obeso lo metterò di buon umore. E poi voglio farmi di crack, di Prozac, di estasi, di coca, di sciroppo per la tosse. Voglio sballare così tanto che incontrandomi i tossici pincalliti diranno: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E poi voglio girarmi per i centri commerciali e diventare un serial killer. Mi metto un freezer giù in cantina, sempre rifornito di resti umani, poi me li porto su pezzettino per pezzettino, li metto al microonde, li esco e me li gusto davanti alla televisione. Io voglio che mi rasiate a zero, che mi scortichiate vivo, che mi leghiate stretto stretto con del filo spinato e mi frustiate le piante dei piedi, così forse sentirò qualche cosa di vero per 2 o 3 secondi, forse sparirà dalla mia testa tutto questo rumore.